1854, secolo più, secolo meno, in un podere di sassi nell'Illinois da padre e madre, immigrati tedeschi, ero l'undicesimo figlio di mia madre, essi. Dei 10 figli che vennero prima di me, la storia non è troppo allegra. 6 morirono alla nascita, prima di aver compiuto l'anno di età, 2 di mal di gola, come si chiamava allora la difterite. E poi dopo di loro mia madre ebbe altri 2 figli nati morti, un altro aborto, dopo di me poi più niente. Benché lei e mio padre continuassero a fottere 2 o 3 volte alla settimana sul loro vecchio letto di corregge, dei 2 chi faceva più baccano era mio padre. Quando veniva sembrava un vitello sgozzato. Era un fatto. In una cascina è impossibile venire su senza imparare tutto molto in fretta, perché la natura ha inventato cose abbastanza pazze, perché il mondo rimanga sempre pieno di uomini, di animali. Quando arrivava la primavera, tutta l'aria era piena di animali in calore che si rincorrevano, si mordicchiavano, si accoppiavano. La libidine invadeva ogni cosa. La gallina andava in giro con il culo tutto spremato. Lo stagno era pieno di girini. Avevamo un papero, un vecchio baffo, che quando gli veniva il prurito formicava con qualsiasi cosa gli capitasse a tiro, e a quanto pare gli veniva molto spesso. Arrivava fischiando e sbattendo le ali, e se non trovava una papera, cercava di montare un porcellino, un cagnolino o uno dei miei coniglietti neri. Gli sparai col calibrotto di mio padre caricato a pallettoni, un fucilaccio che non scherzava. Quello che rimase di vecchio baffo lo mangiammo a cena, aveva un sapore schifoso. Mi è sempre venuto da ridere anni dopo, quando io ho sentito parlare della purezza, l'innocenza della vita in campagna, la vita nella natura sarebbe migliore di quella che si fa in città. Per miglia e miglia intorno a noi non c'era nient'altro che il letame. Una lotta continua per tenersi miseramente in vita, per sfuggire alle grinfie delle banche, per evitare che ci mettessero all'asta la cascina, per pagare le tasse. Certo, quello che mi distingueva dalla solita mocciosa di campagna forse era proprio l'idea che, al di là di quella collina, oltre quel granaio tutto scrostato, oltre quella strada piena di polvere d'estate e d'inverno piena di fango, al di là c'era un altro mondo, un altro cielo, che era azzurro come i pantaloni di un olandese, diceva mia zia, che era stata una zoccola, e mi parlava di Pittsburgh, di St. Louis, dove beveva acqua vite, e dove c'erano uomini che portavano guanti di capretto, fumavano sigari a Havana, ed erano dei veri su zia Letti. Lei disse che era venuta a morire da noi. Era una donna alta, con le labbra fine fine, i denti tutti guasti e i capelli tinti di arancione, colore che nessuno dalle nostre parti aveva mai visto e che stingeva sulle federe. Disse che aveva un pochino di denaro da parte per mantenersi sino alla morte, che prometteva non avrebbe guardato. Mi ricordo quando mi vennero le mestruazioni, le grida che mandai là sul mio pagliericcio, come se stessi per morire dissanguata, perché naturalmente nessuno mi aveva detto nulla. E allora fu zia Letti a prendermi da parte e mi disse: "Beh, allora è questo che vuol dire, sai, essere una donna." Mi mise una pezza in mezzo alle gambe e mi disse: "Vai, che adesso sei adulta. Adesso sei adulta." Avevo 14 anni. E a quel punto nella cascina stava per morire davvero. Se ne stava sempre seduta con la sua vestagliuccia di cotone verde, le babucce rosse ai piedi, i capelli erano grigio, cenere, perché ormai da tempo aveva smesso di tingerli, e continuando a dondolarsi con la sua voce chioccia mi disse: "Vattene via da questo posto, delirio mio, o finirai come tua madre, mia sorella Apessi, tutta lavorata dentro da un branco di cuccioli, uno ogni 9 nessun'altra vascina da queste parti. Bellina mia, oramai è tempo che tu lo sappia, io ho fatto la cortigiana 20 anni. Ho lavorato in alcuni dei migliori casini. Non voglio dire che ogni tanto io non dovetti prenderla un po' così come veniva, ma se vai a Pittsburgh, a San Luis, e comanditi la tibra. Come mi facevo chiamare allora da certi uomini che se la spassavano in giro un po' di tempo fa? Ero tutta Berletti, ero tutta Organdese. Bellina mia, io sto per morire e tu rimarrai qui, da solo. In mano stringeva qualcosa, aprì le dita. Guarda, guarda che questo è per te, sai? Che non mi rimane più niente. Io non ho più un cammello, non ho più un anello. Oh, questo però è di qualche scaccio. Era un orologino d'oro a doppia cassa della grandezza di un dollaro d'argento. Sopra che era inciso un cupido nudo con il calzino e tutto, che lanciava dardi e fiori e le lettere L e B. Ma lo vuoi prendere anche tu? Me lo chiede Ziegfeld. Quando lasciai la sua casa a San Luis, sta bene su una camicettina azzurra o gialla. Ricordati, bellina mia, Siegfried, Siegfried, ma sanno. Vedo che la zia non è in quell'istante. La sua mano nella mia e l'orologino che mi batteva fra le dita come se fosse il suo cuore. Quella vecchia puttana era l'unica persona buona che io avessi mai conosciuto. E a quel punto veramente ero diventata adulta. E a quel punto io volevo conoscere pienamente ciò di cui i ragazzi parlano continuamente: Charlie Owen. Mi veniva dietro sin da quando io ero una poppante. Charlie Owen lavorava all'emporio di suo zio a India Crossing. Un giorno andai lì, lo trovai seduto su un alto sgabello, lì mi cinse la vita con le braccia, mi tastò il sedere con l'unica mano che aveva, l'altra l'aveva persa durante la guerra civile, e poi mi disse: vieni alla capanna delle trappole questa sera. E io lo sapevo. Io ci sarei andata alla vecchia capanna lungo il ruscello, e quella sera dopo cena uscii di casa e scesi il torrente. Scoprì allora una cosa a proposito della mia vagina e del mio basso ventre. la capacità di afferrare, trattenere l'arnese, come se stessi mangiando il capezzolo di una vacca. E poi in aprile Charlie disse che aveva ben 111 dollari da parte, ma che dovevamo andare via subito, dovevamo scappare. In realtà aveva svaligiato l'emporio di suo zio e così una sera io riempii una delle valigie di zia Betty con tutto il nulla che io possedevo. Ma dentro, dentro io ero maledettamente piena di curiosità, di ignoranza e di spirito di contraddizione. Fossi stata sgravettata sulla luna nel maggio del 1867 quando arrivai a San Luis con un uomo senza una mano appena uscita dalla cascina, non sarei stata più trasecolata. Tutto mi appareva altissimo, grandissimo, coloratissimo. La cosa che mi spaventava di più era la vernice. Ah, tutto quello che si poteva verniciare era verniciare, e era più con colori talmente chiassosi nel mondo dal quale io provenivo. Con la verniciata tutta più, almeno quando era nuovo, ma le cose venivano lasciate in cucire alle intemperie. Giravo per la città tenendo di stretta traccia di Charlie con gli occhi sgranati. Oh no! Mi rifiutavo di salire sulle carrozze. Allora non prendiamo, non prendiamo, dai, dai, torniamoci in camera, torniamoci in camera. Tornavamo, ci sdraiavamo, ci buttavamo sulla caviglia giù, lo facevamo anche 4-5 volte al giorno. Io ero così in paura perché avevo bisogno di sentirmi rassicurata come il bambino ha bisogno della pipa da succhiare. Dopo 2 settimane già avevo la faccia da fare schifo. Io pensavo che mi prendesse da tutte le manfrine che facevamo letto. Ma quando non fu più in grado di pagare il conto della pensione, io capii che aveva perso al gioco. E così, una mattina, me ne tornavo alla pensione piena di appetito. La padrona della pensione mi bloccò la strada lungo le scale. Inutile che stare qui, non è più la stanza. Naturalmente rimasi di sasso, impietrita dallo sgomento e anche dalla paura. La donna mi guardò scuotendo la testa come se mi compatisse. T'ha piantata, eh? Ha portato giù le valigie, l'ho mandato e se n'è andato. Si è portato via persino le lenzuola, le coperte. Ho capito, signora, va bene, però io dico adesso io che faccio per tesormi, io non lo so, basta che smambi. Io lo sapevo che non avrei mai più rivisto Charlie, infatti non feci alcun tentativo di cercarlo. Mi avviai verso il porto fluviale, mi misi una mano qua. No, non provavo nessun dolore, nessuno. L'unica cosa di cui io ero certa è che non avevo nessunissima intenzione di tornare a casa, in campagna. Sempre così sentì qualcosa di duro. No, certo. Era l'orologino di zia Letty, io lo portavo sotto il vestito da quando Charlie aveva iniziato a impegnare la roba per giocare. E stavo lì, ero ferma. E passò un uomo. Mi guardò, mi sorrise. Poi si voltò, si toccò il cappello. E io ero sempre ferma, così. E credo che proprio in quell'istante dovette prodursi nel mio cervello un contatto. Il passaggio di quell'uomo, il fatto che si fosse toccato il cappello, che mi avesse sorriso, che si fosse voltato, e l'orologino che zia Letty aveva avuto dai Flagler che possedevano un casino a San Luis. Io non so che cosa avrebbe fatto qualsiasi altra ragazza, probabilmente il 99% sarebbero andati dall'ebreo a impegnare l'orologino. Io decisi di cercare la casa dei Flagler dove aveva lavorato zia Letty e chiedere aiuto a loro. Dopo circa mezza giornata di vagabondaggi, io avevo il cuore che mi batteva molto in fretta, ero tutta sudata, avevo fame, dovevo anche fare pipì quando... Mi parve di aver trovato la casa giusta. C'era come la maniglia di un campanello, ma era tutta lustra, era tutta dorata, e fuoriusciva dalla bocca di un animale. Io suonai, prima piano, però poi più forte. E all'interno da qualche parte mi parve di udire un tintinnio e poi una voce disse: sì, io vorrei parlare col signor Flagler, prego, da parte di una vecchia amica. Che vecchia amica? Mi venne in mente di fare fare un gesto disperato, mostrai l'orologino, un ometto, basso, assonnato, grasso, con i radi capelli biondi in disordine e i baffi erano spioventi, insomma il signor Flegel, anche lui di origini tedesche, allungò la mano verso la mia. Ma tu dove hai avuto questo? Me l'ha dato la zia, e poi tutto d'un fiato. Mi disse di venire da voi quando fossi arrivata qui a St. Louis. Era una di quelle intuizioni che possono salvare la situazione o comprometterla del tutto. Infatti l'uomo guardò l'orologino, guardò me, guardò l'orologino, guardò me, poi disse: ma va bene, dai, entra. Dai, entra! Come hai detto che ti chiami tu? Nelly, piacere. Ah, Nelly, piacere. E come sta Letty? La zia è morta un anno fa. Oh, ein guter Mensch! L'uomo mi introdusse in una cucina dove una donna alta, slanciata, stava guardando una ragazzotta bassa dall'aria tonta che sgranava a piselli. Emma, guarda, questa è la nipote di Letty. Ricordi Letty? Ah, già, e così di dove? Ah, vieni tu. Dalla campagna, piacere. Guarda cosa ci ha portato. Quello, vede, quello è l'orologino della mia zia. Lei me lo dette prima di morire e mi disse di venire qui da voi, che vi sareste occupati di me. Si mise a parlare in tedesco, che io naturalmente capivo benissimo. In 5 minuti, dopo una fumante pisciata, io stavo dando fondo a una delle più buone pietanze che avessi mai gustato nella mia vita e stavo mostrando ben bene il piatto con un pezzo di pane, sorridendo a Zig ed Emma Flegel e... E non me ne importava niente. Se mi avessero venduta come carne da macello o se mi avessero gettata in mezzo alla strada, perché? Perché ero piena di cibo e stavo gustando caffè con pane. Emma mi diede un'ultima occhiata e poi mi disse: ah, Nelly, io credo che tu andrai bene, sai, tu andrai benissimo. Mi rimisi in sesto e dopo qualche giorno Emma mi disse che se volevo quella sera potevo lavorare e così mi spiegò i miei doveri di puttana. Con il suo forte accento tedesco mi disse presto a poco così: un casino di gran lusso, sai, con una ottima reputazione, serviamo soltanto la clientela migliore e abbiamo una sola regola: tu eserciti la tua vista, la tua arte, e non puoi rifiutare nessuno dei nostri clienti. Tu devi essere cordiale, devi essere gentile, devi essere servizievole. Ah, devi accontentarlo in tutto. Lui vuole questo, tu dai questo. Lui vuole quello, tu dai quello. Perché diciamo che lui è tuo padrone, tu sei sua schiava. Allora tu devi essere così pulita, buona, servizievole, accontentarlo in tutto. Ma hai domanda nel mio disco? Allora mi spiego il convenevole in salotto per il cliente, poi lavoro su in camera. Allora, ogni volta fai finta di fare più grande chiamata di colpa. Tu la cerni, coprati per terra, invoca pietà, di che è un uomo terribile. E poi dopo ogni volta fai grandi complimenti a lui per pazienza, peso, per essere venuto così tanto. Ci sarà qualche cliente che vorrà che tu dica papalacce. Tu conosci papalacce? Sì, sì, pensando che tutte quelle che abbiamo imparato in campagna sarebbero andate bene. Oh, bravo, bravo! Allora, questa sera diciamo che ti porti su quattro da 25 clienti, yeah? Dopo ogni volta ti lavi, oh, molto bene ti lavi, sì. Poi ti aggiusti i capelli, ti aggiusti il vestito e scendi di nuovo giù. Se lui ti regala bocetta di profumo, tu prendi bocetta di profumo. Se lui ti regala denaro extra, tu prendi denaro extra. Mettendoti così giovane, così nuova, ci sarà qualche cliente che vorrà sapere per quale English, per quale, disgrazia sei finita fino a qui. Cosa che più mi piace di sentire è che sei stata rovinata da un vecchio. Ma che pura come un ciglio! E devi dire queste cose in tono molto triste, sai, abbracciandolo mentre lo dice, anche per questo vengono qui, vedrai ti amare. È una delle parti al servizio del cliente. Frodate calze di seta, le prime che io avessi mai visto indossare in vita mia. Poi Centinaia di altre volte con Charlie, io entrai nel gioco e dimenticai me stessa. Ecco come fu la mia prima volta in una casa, l'inizio del mio lavoro di puttana. E dopo un mese, dai Flegel, oh, io ero convintissima che avrei saputo tener fronte a qualsiasi cliente, a qualsiasi situazione. In città era venuta in tournée una compagnia teatrale con un attore famoso. Questo Pug era un attore molto noto all'epoca. E quando c'era lui, il salotto era sempre pieno di allegria. Il grammofono, il pianoforte suonava da tutta birra, il brandy, il whisky scorreva da fiumi. E Flegel suonava dei valzer con nonchalanza, Mitch Lamprey. Poi mi disse, che dai, stiamo insieme questa sera. Dovete aiutarlo a salire le scale, mentre lui continuava a Zig di mandargli su del vino in una glassette. E poi in camera dovete anche aiutarlo a spogliarsi, eccolo qua, con le mutande lunghe, un po' di pancia, che schioccava le dita e voleva un sigaro, puzzava come i nostri cantata a male. Continuando a schioccare le dita, mi disse, offrimi questo ballo! Il vecchio Pug vuole ballare, il vecchio Pug vuole ballare! Io gli dissi che mi dispiaceva, non sapevo proprio ballare, ma che sarei stata felicissima di fare qualsiasi altra cosa per lui. Mi tolsi la vestaglia, mi sdraiai sul letto, lui mi si avvicinò, mi guardò e poi cominciò a grugnire. Kate! Mi chiamava con questo nome. E tu non sei una brava puttana, Kate! Tu sei una puttana da quattro soldi, Kate! E così via, iniziò a insultarmi e per tutto il tempo mi chiamava con quel nome. Kate! Kate! Kate! Puzzava! Puzzava di whisky, di sudore, aveva la palla bocca. Io pensavo che da un momento all'altro lui sarebbe caduto sul letto e si sarebbe addormentato. Io lo speravo perché adesso mi avevo afferrato con tutte quelle mani che mi stavo trascinando per il pavimento. E tu sei maledetta, Kate! Tu mi hai strappato le tue mani, Kate! Adesso io ti spacco contro il muro, Kate! E ti faccio uscire fuori il cervello, Kate! Io lottavo con tutte le mie forze, era più grosso, era più forte di me! Io ero nudo, nudo a parte le calze del cerettiere, il cerchio mi stavo! Tentai di urlare, però adesso io mi sto letteralmente strangolando. Cacciai di punta sul petto del ratore, poi cacciai in picato, cacciai un'altra volta più forte che potevo di lasciare andare, urlando e bestemmiando con le mani sul liquido e peloso. Svegli! Dopo quella aggressione naturale divenni una vera professionista. Non mi successe mai più una cosa del genere. Dai Flagel, il mercoledì avevamo la giornata libera fino alle 5 del pomeriggio. andavo alla cascina con zia Letti. Sì, ogni tanto mandavo del denaro a casa, almeno. Almeno sì, da quando morì mia madre. Seppi che era morta un giorno, per caso, da una signora di Indian Crossing che io incontrai all'uscita di un elegante negozio in Lafayette Park. Notai benissimo il suo stupore nel vedermi così elegante. E la signora mi disse che la mamma una notte si era sentita male. Allora era rimasta a letto, il papà le aveva preparato una tisana di erbe. Dopo qualche giorno la mamma era morta. Io diedi alla donna, una certa signora Miller, $5 perché comprasse un bel mazzo di fiori da mettere sulla tomba di mia madre, e la salutai in fretta. Entrai nel bar di un albergo e mandai giù due bicchieroni di whisky, uno dietro l'altro. Essere stanca la mamma, logorata dentro da tutte quelle gravidanze, tutti quegli aborti, tutto quel che era cucinare, lavare, pulire, i lavori nei campi, i bastoni per i maiali, ammazzare gli animali, mungere, il fango, la neve, il freddo, le mani tutte viola, pure il gelo, i denti tutti quanti andati prima dei 30 anni, pelle ridotta una carta arcata, mai una parola gentile, mai un vestito che fosse degno di questo nome, un paio di scarpe che gli andassero bene. Io non piansi quel giorno perché mia madre era morta, no. Io piansi perché finalmente si riposava, non era più in pena. Non era più maltrattata da quella figlia bestia di mio padre, lui che non aveva mai avuto per lei un'oncia di pietà, un'oncia di gentilezza, un'oncia di amore. Povera donna, buona, lavoratrice fedele, poteva ormai soltanto piangerla, quella povera cagna, e amarla, come non ero riuscita a farsi che era in vita. Sul cappello portava una veletta, la tirai giù per nascondere. Avevo 16 anni, non avevo mai amato mia madre e lei non aveva mai avuto il tempo di amarmi. Io sentivo che c'era qualcosa di sbagliato in me. Goldie Brown, come mi ero messa a nome, perché si devono amare i genitori, si devono amare. Il padre e la madre tutti lo sanno, però io non c'ero riuscita. Non c'ero riuscita finché erano in vita. Io non avevo mai amato nessuno di tutte le persone che avevo lasciato lì alla cascina. Quando uscii dall'albergo, mi guardai nella vetrina di un negozio. La veletta sugli occhi, vestita elegante. La vita sottile, i fianchi superbi ondeggianti, le scarpette marroni e grigie, sotto le caviglie sottili, una puttana da $20, sì! Quando avevo 22 anni, poi cominciai a pensare all'avvenire. Conobbi Conrad Richter, possidente di tre fiorenti fabbriche di sigari nel Midwest. Conrad aveva proprio l'età giusta, appena sopra i 40, magari era sposato, fedele con figli. Sentiva però il tempo che passava, sentiva che c'era qualcosa forse di più divertente, di più allegro, che non una moglie annoiata per la quale ormai chiamare non rappresentava più nessuna attrattiva, era solo dovere, abitudine. E poi Conrad, spogliato, ah, mostrò uno splendido corpo muscoloso, una bella peluria gialla sul petto, sulle parti, uno stupendo virilio eretto. Ah, a quell'epoca io vedevo la buona società come una gran massa di gente vestita bene, con bei cappelli, che aveva le case migliori, i cavalli migliori. In seguito io aprii gli occhi compresi, erano una massa di stronzi, però Per quell'epoca io credevo in un mondo migliore, in tempi migliori, il mondo di Cora Grigsted, con tutte le sue buone maniere, le sue regole morali, rappresentava per me la rispettabilità. Ed è per questo che io accettai la sua offerta quando lui mi propose di diventare la sua amante e di lasciare la casa e di trasferirmi in uno splendido appartamento in città. Ma una sera Conrad arrivò tutto sono sicurito. Non avresti potuto mandarmi un biglietto? Mia moglie si è tutto uscito. Tu non sai, hanno persino ascoltato fuori da finestra. Si sono arrampicati su tutta la veranda, tutto, tutto. Quando riportato il resoconto del detective, una vergogna, una vergogna. Quello che dicevamo, soprattutto quello che facile, oh, Dio, corti. Ma tu le hai mai lette quelle cose proprio scritte nero su bianco, ma è stata lei, è stata lei, mia moglie, col suo carattere, a costringermi a questo. Che poi voglio dire, che cosa vuole mia moglie? Ha il nome, ha la casa, perché io che cosa volevo io? Io volevo qualche attimo di amore, qualche momento di amore. Conne, che cosa vuole adesso tua moglie? Che cosa vuole? Vuole che tutto torni come era prima che io ti conoscessi. Ma non gliene importa niente che noi qui abbiamo trombato, come Ricci lo dice, che quello che è stato una pagina della mia vita, che ora però bisogna archiviare, eh? E dire, mio Godi, ma che cosa vuoi che dica? Io dico che tua moglie è una zoccola disonesta perché vuole farsi pagare senza farti trombare. Ma tu vuoi lasciarmi? No! Sì. Per poco, poi vedrai che le cose si aggiusteranno. Vedrai mia moglie, capirà. Quello che sarebbe avvenuto che lo figuravo fin troppo bene. E infatti una mattina bussò alla mia porta un ometto basso con i capelli un color sabbia che si strofinava continuamente le mani, si umettava le labbra, aveva gli occhiali cerchiati di argento e mi disse di appartenere allo studio legale di Mister Conrad Richter e mi pregò di farlo entrare. Io lo posso fare per nome. Dai, dai, dai, dai, veniamo sopra. Eccola qua, quanto è bella la signora Brown. Sistemata bene, eh? Bella signora Brown. Allora, dice veniamo sopra. Certo che ci vengo, signora Brown. Allora, diciamo che lei le va le tende, eh? Diciamo che lei è la stessa Luz. E in questo caso io sono autorizzato a darle 10.000 dollari in azioni di ottime società e 1.000 dollari in contanti, eh? Conrad vuole questo che io me ne vada, sì. Certo, signore. Mi dimenticavo. La generosità di Mr. Conrad. Signor Conrad vuole far scrivere delle lettere, sa? Da certi suoi amici, a certi altri suoi amici a New Orleans, perché? Perché questo le permetterà di avviare la, come dire, una sua attività? Ecco qua. Sa che il signor Conrad ricorda molto bene che lei in passato ha manifestato un desiderio in tal senso. Conrad mi ripagava offrendomi la possibilità di diventare una tentaia. Bene. E allora dica al signor Conrad che io lo ringrazio e ovviamente accetto l'offerta. Fece la vendetti e diedi via un mucchio di roba che non potevo portare con me e presi un biglietto per Chicago. Volevo vedere una vera grande città là. Avrei rifiutato sul proposito di New Orleans. Quella sera presi il treno alle 11. C'era una carrozza. Avanti c'era stato e una mano guantata mi salutò mentre salivo sul treno. Dentro con i miei bagagli trovai un mazzo di viole. Il treno diede uno scossone, si rotò, cominciò a muoversi per prendere velocità. le lampade a olio lo compravo. Io presi i fiori, non c'era nessuno. Biglietto. Adesso, prima di andare avanti nella mia storia, io devo fare una precisazione. Perché tranne che nel linguaggio legale di alcuni legislatori, una puttana non è un malvivente. Perché una puttana non ruba, non rapina, non scassina, non aggredisce, non assassina. In sintesi, una puttana non fa male a nessuno, al limite un pochino a se stessa. Però ogni puttana sa dell'esistenza della malavita. Sa che esiste un secondo governo sotto quello alla vista di tutti. E spesso il crimine è gestito dalle autorità, e poi il bottino viene diviso con personaggi altamente rispettabili. A sua volta il mondo del crimine è suddiviso in caste. La crème della crème, l'aristocrazia del crimine, è costituito dagli svaligiatori di banche, gli scassinatori di stanze blindate in cassette di sicurezza, insomma quelli che utilizzano la nitroglicerina, la dinamite. Anche questo è un mondo con il suo gergo. Io sto facendo tutti questi discorsi a proposito del mondo del crimine, quale io l'ho conosciuto, per arrivare ad uno scopo. E il fatto è che io mi innamorai di uno svaligiatore di banche, uno scassinatore di stanze blindate, e per parecchi anni vissi nel mondo della mano. E dico proprio l'amore vero, quella cosa un po' stupida, antiquata, con gli occhi stellati, e non l'ho mai rimpianto. Però ricordo di un casino di Chicago vicino al lungo lago, non è che mi fessi proprio messa a fare la vita, ma una governante si era ammalata e io la sostituivo, naturalmente i clienti insistevano perché io scendessi. La prima volta che lo vidi stava bevendo whisky irlandese, il suo preferito, e io vidi un uomo alto, slanciato, elegantissimo, con bellissime mani affusolate e scarpe a punta lucidissime, che ascoltava la grassona, il pagliaccio da casa che raccontava una barzelletta irlandese. Lui si limitò a fare un sorrisetto come se la barzelletta l'avesse urtato, poi posò il bicchiere, venne verso di me e disse: io stavo per andare via, adesso rimango. Cos'è che mi ha mandato la luna di traverso, mister? Io mi chiamo Don. Parlavo 5 minuti e poi lui ordinò alla proprietaria: mandami su una bottiglia di whisky, per favore. In camera lui era molto serio e anche molto caro. Io non lo so perché, ma questo cliente mi intimoriva un poco. E poi mi disse che era strano, era molto strano. Si tolse le scarpe, i pantaloni, che ripiegò con cura, posò sulla sedia, andammo a letto. Io allungai una mano sul suo virino e lui disse: non voleva. Voleva dormire. No. La mattina dopo mi guardò con quell'aria distante che io avrei imparato a conoscere così bene, ma però mi disse: sei una ragazza stupenda per dormirci insieme, mi piaci molto, tu sei la mia ragazza. 4 giorni dopo ci sposammo, un vero e regolare matrimonio in un paesino con una piccola chiesa bianca, un ponticello bianco, un Indian House Hotel. Ci sposò un prete, proprio balbuziente. Quello era l'amore. Sì, certo, la rovina di ogni puttana. Sposare qualcuno e amare un uomo soltanto. Con tutto ciò, un periodo bellissimo. L'unica vera pace per mia vita. Felicità! Una parola che io avevo sempre guardato con sospetto, ma questa volta proprio di felicità si trattava! Ci stabilimmo in un paesino, nel New Jersey, a circa 20 miglia da New York. Avvicinato avevamo fatto vedere che lì fosse un chimico. In realtà in una stanza stava preparando una parte di cultura esclusiva. E poi mi disse, per il prossimo colpo saremo in quattro. Il giorno che partì, gli diede un bacio e gli disse, tesoro, adesso non aspettarti notizie, sai? Torno. Ma certo che tornerai. No. Trascinato là sotto tutto massacrato, con in corpo 3 pallottole. Io non sappi mai né come né perché. Forse il colpo era andato male, forse erano stati i suoi uomini a farlo fuori per smaltirsi tutto il malloppo. Quando lo seppi io, il corpo di Monte, non reclamato da nessuno, era stato mandato a una scuola di medicina. Avevo proprio vinto la ruota. Monte era morto ed io ero incinta, incintissima, vomitavo tutte le mattine, mi rimanevano 211 dollari, avevo qualche anello, qualche braccialetto che avrei potuto impegnare, farci qualche dollaro, non molti, avevo l'orologino di Zialetti, no, le azioni che mi aveva mandato l'avvocato di Conrad ormai non valevano più nulla, allora gli scrissi di dire a Conrad di rimandarmi con tanti soldi che mi aveva promesso e non crollare. Non del tutto. Mi trasferì in una pensioncina fuori dal villaggio. Certo, certo che non era un bel posto per nascere. E poi una mattina di primavera io... Ah! Qua, nella pensioncina, qua! Sentì le doglie del parto farsi sempre più frequenti. Era come se il diavolo mi afferrasse le viscere. Volesse strapparmi. La bocca nera della pensione. Era anche levatrice, almeno così disse. Allora legò una corda ai piedi, metto i piedi all'altro capo e mi disse, tira, tira, bambina mia. Ogni volta che sentite le tira, cerca di far venire fuori quel marmocchio, stufa di stare da dietro. Io ero tutta sudata, urlavo, imprecavo, ed ero sola, ero sola, a parte quella cuoca che era buona. Tutta sudata piena di comprensione per me. Non è che mi fosse di grande aiuto la faccia della mia sua. Poi a un certo punto un rumore di dolore tutto insieme. Io spinsi e venne fuori qualcosa. Eccolo! Per il bambino. con sogni di 6 settimane, 2 valigie, io presi un treno per il nord, poi mi imbarcai in un ferry per New York. A New York presi in affitto una pensione in Canal Street gestita da una certa signora Moore, un'irlandese che rideva, scherzava sempre. La signora Moore mi teneva sogni, gli dava da mangiare una zuppa di latte, gli cambiava i pannolini mentre io andavo in città a cercare lavoro. Però una sera, appena scesa dal tram a cavalli alla vista della pensione, io sentii come una pugnalata nel petto. Era proprio come se una voce mi dicesse: non entrare, non entrare. Trovai la signora Mora col capuchino che piangeva. Portalere, bambina mia, ho avuto gli ultimi sacramenti. Mi avessero tagliata la testa in quel momento, non mi sarei sentita più morta. Bambina mia, abbiamo scoperto che quel mal di gola era difterite e quella povera limoccia se n'è andata. Sonny non c'era più. Il dottore, chiamato all'ultimo minuto, aveva cercato di infilargli in gola una cannuccia di vetro per drenargli i polmoni. Allora lui aveva sbarrato gli occhi ed era spirato senza dire una parola. Alle pompe funebri misero Sonny dentro una piccola cassa bianca. Non mi fece nessuna impressione. Sentì che quello che rimaneva di lui non era più niente. C'era solo una piccola cassa bianca, qualche fiore stantio e l'odore di cera per mobili. Seppellimmo Sonny in uno di quei lontanissimi cimiteri di Brooklyn. Quando rientrai nella camera ero come intontita, avevo gli occhi asciutti, però sentivo ancora il suo odore. Io proprio sentivo come quell'odore di bambino piccolo. E ricordo che solo una cosa mi fece piangere: la vista sul davanzale della finestra di un dolce con il segno dei suoi denti. Dicembre dell'anno in cui morì Sonny, io mi trovavo su un direttissimo, un ottimo treno diretto a New Orleans per aprire un casino e diventare una tenutaia. Io ricevetti un telegramma da parte dell'avvocato di Mr. Corran, in cui mi si informava che era stata depositata di onorare la somma di $11,000 in un conto a New Orleans, ma non si chiedeva né come stessi né che cosa facessi. E allora mi vedo uno di quei pensieri che ti attraversa il cervello. Ma perché quei soldi non mi erano arrivati? Non credo che va. Magari Sonny sarebbe stato ancora vivo se lo avessi portato fuori da quella torrida estate, fuori da quella schifosa pensione, fuori da quella sporca città, ma un pensione di loro. Cristal. toccati su una band di jazz, ma che all'epoca io avevo un pianista che conosceva qualsiasi musica o cliente tenesse nel salotto particolare per i clienti specialissimi si tenevano dei veri e propri concerti. Ah, i miei brani preferiti, ma la marcia turca, certe cose di Chopin. Ah, scrissi ai Flegel di mandarmi sei brave ragazze, belle, giovani, non drogate, non alcolizzate, insomma sei puttane che non avessero un protettore o un amante da mantenere. Aprì una sera di marzo con un piccolo pranzo per i capaccioni della polizia, alcuni esponenti politici, servì parenti, sciabattino, sciabattone, le caraffe brillavano e quel brillio diceva sei una tenutaia, adesso ero una donna d'affari e dovevo essere dura come qualunque uomo d'affari se volevo uscire, volevo dare roba di prima scelta e farmi pagare profumatamente perché? Perché avevo deciso di prendere una casa da 20 donne. Ah, al mattino la casa era come una tomba. Le ragazze dormivano. Era del tutto inutile che io facessi preparare il pranzo, perché soltanto verso le due qualche ragazza iniziava a chiamare le cameriere perché portassero loro il caffè. Prima del caffè le ragazze erano tutte quante piuttosto giù di stomaco e io dovevo anche controllare che le sborniole non si facessero portare su del whisky. Alle 4 volevo che scendessero tutte quante per la cena. Prima però si dovevano lavare, si dovevano aggiustare i capelli, il vestito. Servivo sempre loro un buon pasto, niente sbob, patate, bistecche, tacchino, carne bianca di pollo, pesce gatto di fiume fritto, torta di mele, grande quantità di frutta secca, perché uno dei guai delle prostitute è la stitichezza, ma io pretendevo che andassero regolarmente e che prendessero la casca il reobarbaro. Alle 9 i tre neri cominciavano a pescare nel salotto grande, il pianista mi prendeva a suonare il piano nel salotto particolare per i clienti specialissimi, le ragazze giravano, le cameriere offrivano da bere, tutte le puttane erano in abiti da sera, abiti da me approvati, loro avevano un posto terribile, andavano a pazza dai frufrui, qualche ragazza era vestita da fantino, pantaloni attillati, stivali di cuoio, cappellino con la visiera, oppure la scolaretta, scarpine con le nappe, due grossi fiocchi celesti ai capelli. Alle ragazze il brandy veniva mischiato con il tè, ogni 5 giri, puff, gli volavo una dose di whisky, per mezzanotte se era una buona serata di questa notte vi erano dai 12 ai 20 uomini. E poi però verso le 3 la folla dei clienti cominciava a scemare, chi faceva la notte in camera e al terzo piano magari si organizzava uno spettacolino. Due o tre ragazze a nude o in abiti succinti facevano una danza un po' gonfie, quel tanto che bastava per mettere i clienti a loro agio perché si unissero a loro in un premio margherino per una solo veramente. Quasi anche io mi univo a queste danze di gruppo. E poi, per le 5 della mattina, a meno che in città non fosse arrivato qualche grande nave importante o non ci fosse qualche gran mano, io ordinavo di spegnere le luci e tirare il catenaccio. Al mattino la casa puzzava ancora parecchio. Cipria, lisoformio, puzza di sigari, greve odore di donna, puzza di ascelle, piscio profumo, lavande vaginali, whisky versato. La casa per me non era una buona casa se al mattino non aveva quell'odore particolare. Quello che io offrivo era una casa di lusso, una casa di alta, alta classe, con ragazze belle, sane, pulite, da 20 dollari. Ma i prezzi scendevano via via sino ai 15 centesimi nelle stie per i neri. Bastava pagare le persone giuste che si poteva aprire qualsiasi tipo di casino. Sostanzialmente esistevano tre tipi di puttane: le puttane da casino, le mie, le puttane da alveare, le puttane da capanna. Gli alveari erano degli edifici di 3-4 piani sul punto di crollare, lunghi corridoi con stanzette laterali, in ogni stanzetta vi era una donna. Mi è capitato di visitare alveari dove lavoravano dalle 250 alle 300 ragazze. Nelle capanne invece c'erano le schiave puttane cinesi, anche le mie. E bianche, decadute dai casini e dagli alveari. Prende, sì, amore. Appetitoso. Giovane, amore. Prende, sì. Un amore ancora fresco, incontaminato. Un amore che è solo un pochino macchiato. Bene, sì, amore. Io ho sempre amato le mie ragazze. Io le ho sempre rispettate. Ho preteso che fossero sempre rispettate. Ne ricordo una in particolare a nome Gladdy. Ah, Gladdy era una fanatica dei diritti delle donne. Partecipò alle manifestazioni di Filadelfia e di New York, dove fecero delle sfilate per il diritto del voto alle donne. Ficcarono degli spilloni lunghi così nei cavalli della polizia e sostennero di essere al pari degli uomini. Gladdy era una puttana eccezionale che si portava su tutti quanti i pistola intellettuali con i quali parlava di Shaw, di Ibsen, di altri scrittori di cui non ricordo il nome. Ad un certo punto però si prese per amante un pezzo di avvocato nero che aveva fatto il college su al nord. E io le dissi che per conto mio non ritenevo che nessuna persona fosse inferiore ad un'altra di qualunque colore avesse la pelle, ma che il nostro lavoro era fondato sulle convenzioni. Allora lei andò su tutte le furie e mi disse che il suo stallone nero era un grande uomo che si batteva per i diritti umani, e io le dissi che molto probabilmente era vero, ma non era mia casa. Allora le chiesi di fare i bagagli e di andarsene. La verità è che io avevo paura che qualche criminale del Ku Klux Klan venisse a darmi fuoco alla casa, oppure venisse ad impiccare quel nero davanti ad un lampione di fronte alla casa. Per 2 anni non sapevo più nulla di Gladdy. E poi lessi sul giornale che l'avvocato nero era stato inchiodato nel fiume, massacrato e martoriato. Evidentemente qualche porco del Ku Klux Klan che aveva fatto la festa. Alberi del sud hanno degli strani frutti, sangue sulle foglie, sangue nelle radici, corpi neri oscillano nella brezza del sud, strani frutti tendono. E così arrivò il 1900. Come se il nuovo secolo fosse stato il segnale per mettersi tutti quanti in agitazione e cambiare stile di vita. Quel genere di musica chiamato jazz stava diventando sempre famoso, e suonatori come King Oliver e Louis Armstrong stavano per imbarcarsi per il nord e portarlo su a Chicago. I vecchi tempi stavano cambiando, i cocktails diventavano sempre più famosi, le puttane erano sempre più magre, tette piccole, culi piccoli. Una notte sognai che l'intera città stava per sprofondare in un mare di sperma. E poi Washington cominciò a regolamentare la prostituzione entro 5 miglia dai campi militari, dai centri navali, e così Nel 1917 anche il Consiglio Comunale della città di New Orleans votò per l'abolizione di Stoppville. Così arrivò la notte del 12 novembre 1917, per così dire, la mia sera di addio. E io non piangevo, ma nemmeno tiravo baci. Le ragazze indossavano tutte quante i loro abiti più belli, negligé, più eleganti. Per la chiusura della mia casa io avevo invitato gli ufficiali, che ormai erano diventati degli abitué, oppure i clienti più importanti, quelli praticamente di cui ero stata sempre molto, molto orgogliosa. Aprimmo alle 9, dovevamo chiudere a mezzanotte e spegnere le vecchie lanterne al 12° rintocco, come Cenerentola. Io feci affettare l'ultimo dei grandi prosciutti affumicati, un intero assortimento di carne, pesce, granchi, aragoste, gamberi dal guscio molle. Nessuno doveva spendere un centesimo per tutto quello. Ragazze, mangiare, bere, era tutto a carico della casa. E ricordo un giudice, uno di quelli che aveva votato per l'abolizione di Stoppville, si mise a piangere, seduto sulle scale con due puttane nude sulle ginocchia. E così arrivò la mezzanotte, ci trovammo tutti quanti sotto il grande lampadario che aveva perso alcuni dei suoi cristalli e bevemmo tutti quanti insieme l'ultima coppa di champagne. Le puttane piangevano, sia nude che vestite, e i clienti, sia nudi che vestiti, che semi vestiti, scendevano dal piano di sopra. Sì, fu una cosa commovente. A mezzanotte i clienti uscirono completamente. Che cosa sentivo, pensavo, in quel momento? Ma era stata, mi dicevo, una vita dura, sotto molti aspetti, ma anche interessante. È certo una vita un po' pazza. Non era il caso di farsi delle illusioni, ma tutto sommato forse era stata anche più felice, più attiva di quella della maggior parte della gente. Io avevo vissuto più che altro da sola, voglio dire, quando non lavoravo. Quindi era stata una vita solitaria e dura. Io avevo preso le mie decisioni da sola, su dove andare, cosa fare una volta che ci fossi maritata. Però mi resi anche conto che in definitiva non ero stata più libera di quanto non sia la maggior parte della gente, ma sì, anche io ero stata condizionata dai tempi, gli accadimenti, gli umori della gente, le necessità, le abitudini. È stata una vita in cui avevo imparato molte cose, forse anche molte più di quante si possano imparare sui libri della chiesa. Fossi stata toccata dalla fortuna, magari avrei proprio studiato, oppure sarei stata una signora, avrei avuto dei bambini, dei nipoti. Ma in mancanza di fortuna poteva andare molto molto peggio. Io poi non credo che fare la puttana in Italia abbia cambiato il mio modo di vedere la gente. Perché quando si arriva alle cose importanti, la crema della società è anche una persona altrettanto vulnerabile, altrettanto smarrita e la parte bassa, però la parte alta mentiva a proposito della sua importanza, dei suoi diritti, perché sapevano benissimo che il loro sistema politico era in gran parte una turlupinatura, un inganno, tutto un vendere e comprare, però si rifiutavano di ammettere che i neri, gli ebrei, le puttane, i poveri, insomma tutti quelli che sudavano, pensavano, quelli che non avevano accesso alle loro cose, non avevano accesso nemmeno ai loro stessi diritti. Si rifiutavano di guardare quello che era sporco, che era sbagliato, poi parlavano di Dio, però lo buttavano via appena uscivano dalla chiesa. Noi, ma certo che noi eravamo storti, noi eravamo anche un po' toccati nella testa, però noi si viveva interamente, si viveva sino all'ultimo centimetro della candela. E poi io ho sempre guardato la gente, tutta la gente, semplicemente per quello che è: nascere, crescere, chiamare, mangiare, amare, perdere, essere felice, odiare, invecchiare, morire, e sarebbe stata sempre la stessa cosa, sempre la stessa. A volte neanche si vedeva che senso vi fosse ad andare avanti, ma io andai avanti comunque, sempre, rimasi sempre sulla breccia. Era amore per la vita, io sinceramente, proprio la curiosità di vedere che cosa ci fosse sbattato d'angolo. E imparai presto a vivere giorno per giorno. Poterlo fare bisogna dimenticare la fede, la speranza. E io proprio non so quale sia il mistero. Ma cos'è? Cos'è che ci crea e poi ci distrugge? E tutto sommato neanche mi interessava un Dio che aveva fatto morire morte, sorte. Un Dio che faceva morire i bambini delle pensioni. Se ha un credo è di mantenere la mia parola. Io pago sempre per ciò che prendo. Non sono amabile, no? Non sono gentile con gli stupidi. E per ciò che pago io voglio il prezzo giusto. Qualunque cosa io sia, io voglio continuare ad essere me stessa. E qualunque cosa o chiunque mi ucciderà, io voglio fargli un tatto di naso e dirgli grazie per il passaggio. Così io la pensavo per San Paolo quella sera, quando chiusi la mia casa. Del resto, se possiamo svegliarci di mattina, forse possiamo anche continuare a vivere. Addio, storie, mia ultima casa, la notte dormire.